Franco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Quando cade una stella, vediamo la luce ancora per qualche anno, magari millenni, però a un certo punto la stella si spegne. Oggi invece parliamo di una stella del cinema e della televisione americana che è caduta vittima dei suoi eccessi. Bene, questa stella brilla ancora, anzi forse brilla ancora più oggi di allora. 4 anni di televisione, 7 film e stiamo ancora parlando di lui. Non è incredibile? Isn't that amazing? Questa è la voce di Bernie Brillstein, uno dei più importanti agenti di star di Hollywood, morto qualche anno fa. Era l'agente del nostro protagonista. Il protagonista di oggi è John Belushi, attore, comico, musicista, grande performer, un uomo che ha vissuto secondo un motto particolare. They all thought I'd be the first to go. Eh già, tutti loro pensavano che sarei stato il primo ad andarmene. Ero uno di quelli che vivi veloce, muori giovane e lasciati dietro un bel cadavere. Beh, immagino si sbagliassero di grosso. Ecco dove sono finiti tutti i miei amici. Ecco le loro tombe. Questo è il cimitero di quelli non pronti per il prime time. Vivi veloce, muori giovane, lascia un bel cadavere, come dice lo stesso Belushi in questo cortometraggio dal titolo Don't Look Back in Anger, non guardare al passato con rabbia. È uno stile di vita che racconta molto di John Belushi. 24 gennaio 1949 la nascita in Illinois, dove poi un giorno incontrò i nazisti dell'Illinois, ma questa è un'altra storia. È un quartiere popolare, una famiglia di solide origini albanesi. Il padre Adam, originario di Gorizia, arriva negli Stati Uniti a 16 anni. La madre è nata in America, ma è anche lei albanese di origine. Hanno 4 figli, oltre a John, una sorella più grande di 12 anni e 2 fratelli più piccoli, Billy e Jean Belushi, che come peraltro sapete oggi è un attore di grande fama. Da piccolo John viene spesso scambiato per italiano per il suo colorito olivastro. La comunità italiana è più riconoscibile nel quartiere, dove invece dell'Albania forse non sanno nemmeno dove sia esattamente. Quando John ha 6 anni si trasferisce a Wheaton, a 40 km da Chicago. Il padre apre 2 ristoranti e John vive un'infanzia felice. E si dice che già alle elementari fosse noto per gli scherzi irriverenti agli adulti, una caratteristica, l'irriverenza, che sarà il marchio di fabbrica della sua carriera. Siamo nel 1963, il 14enne Belushi entra alla Wheaton Central High School e proprio in quel periodo sboccia la sua vita, il suo carattere dissacrante, ma anche l'amore, perché a soli 17 anni conosce la 15enne Judy Jacklin, sarà la sua fidanzata, poi sua moglie, il suo unico grande amore fino alla fine. La prima volta che vidi John, lui era sul palcoscenico in uno spettacolo. Un grande evento in città. Ne avevo visti molti di spettacoli, ma lui era di certo il migliore. L'avevo capito subito. Quel ragazzo ha del talento, pensai. Eh sì, e intanto al liceo John inizia a coltivare le sue vere passioni, il football, la batteria e la recitazione. Nel football ha veramente talento, è il vice capitano della squadra del liceo, lo chiamano Killer Belushi. suona diversi strumenti, canta piuttosto bene, prende lezioni di batteria fino da quando ha 12 anni, però le sue vere passioni sono il teatro e la recitazione. Il suo talento è evidente già in quegli anni. Quando è sul palco riesce a recitare qualsiasi cosa, il suo forte sono i pezzi comici. E come fa ridere lui ci riescono in pochi, è il protagonista di tutti gli spettacoli scolastici. Il suo professore di recitazione, Dan Payne, ritiene che Belushi abbia già doti straordinarie e lo convince a fare un provino per lo Shawnee Summer Theater, il teatro estivo di Chicago. John tentenna, teme di perdere le occasioni che il football può dargli per il college, alla fine però sale sul palco per il provino. Ed ecco il ricordo di Dan Payne. The music director said, well, John, what are you going to do? Il direttore artistico disse, John, cosa hai intenzione di fare? E lui, racconterò qualche storiella. Aveva talento, sapeva stare sul palco. E le storielle erano davvero divertenti. Gli studenti in attesa del provino ridevano tutti. Il direttore disse, questo ragazzo mi piace, è fantastico, dobbiamo metterlo nello spettacolo. Poteva fare qualunque ruolo, non so perché. Era basso e tarchiato. Se l'avete visto nelle foto, non penso avreste detto che fosse bello. Non era il tipico idolo delle donne, alto e biondo, ma c'era qualcosa in lui. Aveva una personalità davvero magnetica. Così John entra in un lampo nella compagnia, è il più giovane attore a essere mai stato stipendiato dal teatro estivo e ha già tracciato la strada, siamo solo all'inizio, si fa le ossa a Chicago, impara tutti i trucchi della commedia, l'improvvisazione, la satira più irriverente, le imitazioni, e la sua popolarità cresce nonostante due borse di studio, una per il teatro e una per il football, ma John lascia velocemente l'università, vuole dedicarsi a tempo pieno alla recitazione. Lo appoggiano la fidanzata, i fratelli e la madre. Il padre invece lo vorrebbe al lavoro nei ristoranti di famiglia, dove a tempo perso lui ha fatto il cameriere. Si ricorderà dei ristoranti del padre quando lavorerà in TV in un famoso sketch, quello del ristorante greco dove si servono solo cheeseburger e Pepsi. Allora, riempi il restaurant. Cheeseburger, cheeseburger, two Pepsi, one chip. Cheeseburger, cheeseburger, two Pepsi, one chip. Get to go, four cheeseburger. Cheeseburger, cheeseburger, cheeseburger, cheeseburger, cheeseburger, cheeseburger, cheeseburger, cheeseburger. No, no fries, chips. What to drink? Pepsi? No coke. No orange? No grape? Pepsi? Four Pepsi! Okay, 10 minutes. Il momento della TV deve ancora arrivare perché siamo nel 68, a Chicago la polizia reprime con i manganelli e i lacrimogeni le rivolte studentesche contro la guerra in Vietnam, anche John prende un po' di botte in una manifestazione, così in quel periodo la sua comicità diventa sempre più connotata dalla satira, irriverente, urticante, e John sta diventando uno di quegli americani che non ci stanno. Fonda un trio comico, i West Compass Players, insieme a Tino Insana e Steve Besicas, che sono due amici di infanzia, con i quali conquista premi e ulteriore popolarità. Nel 1971 c'è un primo grande salto, entra dopo un esilarante provino nella grande compagnia del Second City, il meglio per il teatro di quegli anni. Porta una parodia di Amleto. Invece del classico to be or not to be, essere o non essere, Belushi recita un pezzo dal titolo To be or not to be out, essere o non essere, fuori di testa. Il Falco e il Gabbiano torna tra poco, qui su Radio 24. Il Falco e il Gabbiano. La storia del grande John Belushi, la storia che stiamo raccontando, è arrivata al febbraio del 1971 e il 22enne John entra come membro stabile nella compagnia del Second City di Chicago. È una compagnia particolare, un gruppo di artisti, di intellettuali che mette in scena grandi classici, opere filosofiche, letterarie, e l'arrivo di Belushi è una tempesta perché stravolge tutto, cambia le regole, ogni cosa viene trasfigurata dal suo talento. La commedia diventa la padrona della scena. Belushi a ogni spettacolo prova quelle imitazioni e parodie che diventeranno il suo marchio di fabbrica negli anni a venire. Joe Cocker, il samurai del fast food, Amleto, ma anche Richard Daley, che allora era il sindaco di Chicago. John è un mago dell'improvvisazione, lavora quasi sempre senza copione, infrange tutte le regole del teatro, ma non importa perché è l'idolo del pubblico e John resta nella compagnia per 3 anni. Poi prosegue nel suo percorso, sbarca a New York, ingaggiato per lo spettacolo National Lampoon's Lemming, che è una parodia del Festival di Woodstock. L'impresario dello spettacolo cerca comici capaci di parodiare i cantanti famosi dell'epoca, viene conquistato dall'imitazione che Belushi fa di Joe Cocker. Lo spettacolo è un successo, John comincia a diventare veramente famoso e vive tutto con grande intensità, sul palco e fuori, non è fermo un momento. Sentiamo cosa ne pensa Judy, che è la futura moglie. La vita con John era molto intensa, era sempre così. Lui viveva a quel modo, sempre molto indaffarato. Aveva molte cose da fare. John dava l'impressione di avere una missione da compiere nella vita. Lui viveva la vita, attirava la gente. Credo che molti sappiano godersi la propria esistenza, ma lui aveva più energia di tutti. '73 al 75 John Belushi lavora uno show radiofonico in onda su 600 stazioni radio. È uno show basato sulla improvvisazione musicale. Vive con Judith a New York, i suoi ritmi sono sempre più frenetici. Si sposano nel 1976, lui comincia a consumare droga, soprattutto cocaina, e non è strano in quegli anni e in quell'ambiente. La usano in tanti, i rischi sono ampiamente sottostimati e i vantaggi sono quelli del dinamismo. Insomma, la usa anche Judy, la moglie, la usano i colleghi di John, anche Dan Aykroyd, amico da quegli anni di Belushi. La cocaina era percepita come una droga che poteva aiutare la tua creatività e la tua loquacità, che poteva risolvere i problemi del mondo, quindi era molto diffusa, era ovunque. E credo che per John la cocaina gli servisse a stare in piedi tutta la notte e a stimolare il suo pensiero. John Belushi ormai è una star, è sulle copertine dei giornali americani, da People a Rolling Stones. Uno dei passaggi cruciali della sua carriera avviene nel 1975. John lascia il programma alla radio, sbarca allo show del momento, quello più irriverente e innovativo. They say that I can open the show. Okay. Live from New York, it's Saturday night! Saturday Night Live, in onda sulla NBC, presentato in questo audio da Gilda Radner, che è il membro del cast originale. Lo show che oggi, pur essendo ancora in onda, è nella storia della TV americana e non solo, ne hanno fatte centinaia di versioni in tutto il mondo, è un format fantastico. John Belushi entra nel cast nel 75, vi rimarrà fino al 79. Con lui ci sono, tra gli altri, questo canadese che si chiama Dan Aykroyd, che diventerà suo amico fraterno e la stella del momento, che è Chevy Chase, che invece con Belushi avrà un rapporto conflittuale. Il Saturday Night Live rivoluziona da subito la TV americana con una satira contro tutti, anche contro la rete televisiva che manda in onda lo show. Belushi interpreta puntata dopo puntata una cinquantina di personaggi, molte imitazioni, parodie, da John Lennon a Kissinger e anche a personaggi intoccati fino allora dalla satira, come per esempio Gandhi, cioè diventa politicamente scorrettissimo, un esilarante Beethoven alle prese con i problemi di udito che dopo una sospetta sniffata si trasforma in Ray Charles. Look at him, Frida. He hasn't touched his food. Oh, and he hasn't eaten in weeks. He has no appetite. Ludwig! Ludwig! Dummkopf! Good morning. Nice to see you two. Call if you need me. Achoo. John esplode, il suo linguaggio preferito diventa la parodia e insieme a Dan Aykroyd, che scrive i testi, rivede a modo suo dei film come La febbre del sabato sera, serie TV come Star Trek, inventa dei personaggi come il samurai Futaba, titolare del ristorante samurai Delicatessen, inizia sempre con Aykroyd a portare in scena i fratelli blues, i Blues Brothers, ne parleremo tra poco, è un periodo da vertigini e John lo vive a modo suo, come ricorda Aykroyd. John had an insatiable appetite for everything. John aveva un appetito insaziabile per qualsiasi cosa, per la vita, per i piaceri, i gusti e le sensazioni, dalla velocità delle moto alle tre fette di torta alla ciliegia. You know, to three pieces of cherry pie. È una questione di indole ma anche di necessità. Nel cast della trasmissione c'è grande competizione, bisogna sgomitare, avere sempre nuove idee. Le giornate durano almeno 48 ore se non di più, così la cocaina viene vista non come uno svago ma come una necessità. Annie Beth era una delle autrici del Saturday Night Live. It's 3 in the morning and you have to think of 3 more jokes. Sono le 3 del mattino. Ti devi inventare ancora 3 battute prima delle 5 e ti stai addormentando. Se qualcuno tira fuori della cocaina, devi essere molto forte per dire di no. La si prendeva, non per essere più divertenti, ma semplicemente per restare svegli. Not because we're going to be funnier. E non bastano quei ritmi per John, arriva anche il cinema. Nel 77 lo vuole in un suo film niente meno che Jack Nicholson. È un western, si chiama Verso il Sud. Belushi ha una particina e non è una bella esperienza per lui perché soffre il set e anche il brutto carattere di Nicholson. La pellicola non piace né al pubblico né alla critica. Nello stesso anno John finisce nel cast di un altro film apparentemente senza pretese, sulle avventure della sgangherata confraternita di un college americano. Il regista è il giovane John Landis, nel cast c'è solo un attore di fama, Donald Sutherland. Il film, partito così in sordina, si chiama Animal House. Belushi ha il ruolo di John Blutaschi, detto Bluto. Parla pochissimo, ma è il perno del film. È finita? Hai detto finita? Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi. E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? Col cazzo che è finita! I tedeschi? Lascialo perdere, è partito. E qui non finisce! Perché quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Chi viene con me? Su, coraggio, andiamo! Gabbiano. stiamo raccontando la storia di John Belushi, della sua meravigliosa e veloce parabola. È una storia di successo, è la storia di un uomo che riesce a cambiare le regole dello spettacolo, è una storia di talento e di carisma, ma anche la storia di una vita vissuta con troppa voracità, senza freni, fino a una conclusione, ahimè, piuttosto scontata: la morte per droga. John Belushi diventa una star mondiale grazie al successo inatteso di Animal House. Per girare il film fa la spola tra Los Angeles e New York, dove partecipa al Saturday Night Live. La pellicola di John Landis rende Belushi l'idolo del pubblico giovane, quello che lo identifica nella figura quasi animalesca ma tenera di Bluto Blutaschi. Dopo l'uscita di Animal House, i college registrano un aumento vertiginoso di iscrizioni alle confraternite, fino allora in forte calo. Questo è il ricordo di quel film e di quel set di Tim Matheson nel cast di Animal House. John was, you know, he was very nice to me and John era molto gentile con me. Sai, c'era un po' di rivalità tra gli attori di New York e quelli di Los Angeles. Quelli di New York snobbavano gli altri. Siamo noi i veri artisti, dicevano. Ma John era diverso. Era sempre molto gentile. Andava a fare il Saturday Night Live il sabato. Così partiva il mercoledì sera per volare a New York, per poi essere spedito indietro da noi la domenica sera, dove lavorava da lunedì a mercoledì ad Animal House. Ed io mi perdevo a guardarlo lavorare. La famosa scena in cui attraversava la caffetteria, per esempio. Ecco, tutto ciò era improvvisato. Ed era sempre buona alla prima. Io pensavo, mio Dio! Erano le mie prime esperienze sul set e per me guardare un maestro come lui era incredibile. Penso che la rovina per John Belushi fu il fatto di trovarsi nel mondo del rock and roll, con tutti gli artisti ospiti che arrivavano al Saturday Night Live. Insomma, una volta avevamo anche i Rolling Stones e lui viveva in mezzo a questa gente dove girava molta droga. And so you're hanging out with these kind of guys and they're doing all sorts of drugs. Se diventi amico dei Rolling Stones o magari di Keith Richards, insomma, non è che poi puoi dire bevo una camomilla, grazie. Il successo di Animal House cambia la vita di Belushi, perché fino a quel momento i suoi guadagni erano in crescita, ma non erano spaventosi. Di colpo, dopo il film, Belushi ha più soldi di quanti abbia mai sognato di averne. La gestione del denaro non è il suo forte, non possiede un portafogli, gira con qualche banconota stropicciata in tasca. Nel 79 intanto interpreta un piccolo ma indimenticabile ruolo nel film di Steven Spielberg 1941 Allarme a Hollywood. John è un pilota da caccia americano ubriacone e fuori di testa, Wild Bill Kelso. Ma è l'amicizia intensa e profonda con Dan Aykroyd, il compagno di tanti eccessi e tante avventure, che lo porta al progetto successivo. È quello che per sempre ci restituirà l'immagine di John Belushi con un completo nero, gli occhiali da sole anche di notte, una iconografia imitata da migliaia di persone e di programmi televisivi, e dentro la musica blues. È il 1980, Belushi e Aykroyd hanno già impersonato i Blues Brothers sul palco del Saturday Night Live, tra un pezzo comico e l'altro. Non è una parodia, ma una cosa seria, frutto della loro passione per quella musica. In particolare amano e suonano il Chicago Blues, genere un po' in declino in quel momento. Il pubblico già conosce i personaggi di Jake e Elwood Blues, i Blues Brothers. Ma ci vuole il regista di Animal House, John Landis, per farli diventare dei veri e propri miti, delle leggende. Matt, di là ci sono due tizi vestiti da impresari delle pompe funebri. Da che cosa? Devono essere sbirri della CIA o roba del genere. Che cosa hanno ordinato? Quello alto vuole pane bianco tostato liscio, con niente sopra. Elwood. E quell'altro ha ordinato la bellezza di quattro polli fritti, figurati, è una coca. E Jack, Cristo, i Blues Brothers! La storia di due fratelli in missione per conto di Dio per salvare l'orfanotrofio nel quale sono cresciuti. E diventa un successo planetario. Non solo, il cast di artisti messi insieme per il film è incredibile. Ci sono James Brown, Ray Charles, Aretha Franklin, Cab Calloway, e affiancati tutti da musicisti di primissima grandezza. Il successo è tale da rilanciare in maniera duratura la fortuna del blues dagli anni 80 in avanti. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight, and we would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join. John è all'apice del successo, ma il suo problema con la droga è fuori controllo. Anche sul set di Animal House e di 1941 la droga era un problema per la produzione. Spesso John non era in condizioni di ricordare le battute oppure arrivava in forte ritardo sul set. Nell'80 la situazione è ancora peggiore, al punto che lo stesso Belushi, consapevole del rischio che sta correndo, assolda un ex agente dei servizi segreti, un certo Richard Wendell, per impedire a se stesso di entrare in contatto con gli spacciatori, per rigare dritto. Mi disse: sai, ho tante cose da fare, lavoro in tanti progetti. All'improvviso ho l'impressione che sia davvero troppo per me. Se non mi controllo e non mi do una calmata, non sarò più qui nei prossimi 3 o 4 anni. Gli chiesi perché era diventato così dipendente. La maggior parte delle volte è un problema di solitudine, di stress o di insicurezza. La gente voleva sempre che fosse divertente, che desse sempre il massimo. Per questo doveva andare a Candyland. That's why he would have to go to Candyland. Per qualche tempo John riesce a stare lontano dalla droga, anche per periodi relativamente lunghi. Tra un impegno e l'altro cerca di passare il poco tempo libero nella sua casa a Martha's Vineyard, che è un'isola al largo delle coste del Massachusetts di fronte a Boston. Però ormai il successo lo ha travolto, così come la dipendenza dalla droga, e da entrambi si possono solo avere brevi vacanze. Nel 1981 gira una commedia romantica, Chiamami Aquila. È un film che mostra al pubblico come Belushi sia credibile anche senza indossare i panni del folle, perché interpreta un giornalista di Chicago che si innamora di una naturalista. È una specie di eremita che vive sulle montagne. Nello stesso anno gira il terzo e ultimo film con Dan Aykroyd, Vicini di casa. Ok, per Dio, d'accordo, io ci sto. È pazzesco, ma forse tanto giusto. Via! Alto. Senza fretta, amico. Cosa? Non è il caso di lasciare 2 righe a Inida? Hai ragione. Anzi, io lascerò un po' di più di un bigliettino. Ma la cocaina gioca brutti scherzi sia dal punto di vista caratteriale che da quello della valutazione di se stessi e degli altri. Belushi inizia a litigare furiosamente con il regista John Avildsen, tra l'altro il regista di Rocky e Karate Kid, e spesso non si presenta al Chuck, oppure cerca di convincere la produzione a cambiarlo il regista. E il film non va bene al botteghino, non piace alla critica. Così inizia un momento non felicissimo. È in ansia per l'impegno successivo, non può più sbagliare un altro film. Ha di fronte una pellicola che il regista Jay Sendri sta per portare sul grande schermo, Sweet Deception. È una storia romantica ambientata tra i vigneti della California. Dopo il rifiuto di Chevy Chase, al regista viene proposto Belushi come alternativa. John ha dei dubbi sul film, accetta di interpretarlo solo se si potrà riscrivere la sceneggiatura. Così all'inizio dell'82 vola a Los Angeles, si ritira nel suo hotel preferito, lo Chateau Marmont di Hollywood, e scrive il testo. Quando il regista e la casa di produzione ricevono la sceneggiatura riscritta alcune settimane dopo, il film non è più una commedia romantica, è diventato una black comedy dal titolo Noble Rot, nobile muffa. Si parla di droga, di morte, di decomposizione. Insomma, la sceneggiatura è orrenda e riflette il momento di confusione e sballo che John sta vivendo. Addirittura ipotizza in una scena di iniettarsi droga realmente per dare credibilità al film. John torna a New York dalla moglie ed è in condizioni fisiche terribili. Una sera, dopo un attacco di tosse, sputa sangue. Judy sospetta che il marito abbia cominciato a farsi di eroina per, come dire, scendere di livello dopo essere saliti con la cocaina. Succede, però non ha il coraggio di parlargliene. Lui ammette però che la questione droga è fuori controllo. Judy è esasperata, è stanca di inseguire gli eccessi di Belushi. Si sono allontanati anche gli amici perché stargli vicino non è semplice. Tende a trascinare tutti con sé verso il fondo in un giro folle, fatto di giornate senza giorno, notte, passando da un eccesso alcolico alla cocaina e a chissà che cos'altro ancora. Penso che avrei dovuto stare con lui tutto il tempo che è stato là fuori. che sarebbe andata diversamente, ma poi realizzi che non sarebbe cambiato niente se ci fossi stata, perché la vita è proprio così. Le cose sono andate in questo modo e non si può tornare indietro. Lui non c'è più e non possiamo più farci niente. Marzo 1982, Belushi torna a Los Angeles per cercare di salvare il film. Conosce in questi giorni Catherine Smith. Tenete a mente questo nome perché è una ex groupie, eroinomane, spacciatrice. In ogni caso, il presidente della Paramount cerca di convincere John a non fare Noble Roth, ma di spostare il compenso, che è di quasi 2 milioni di dollari, su The Joy of Sex, che è una commedia leggera che la Paramount cerca di realizzare da anni. Durante la riunione alla Paramount, Belushi chiama al telefono Dan Aykroyd, che gli consiglia di rifiutare. Oh, don't do that piece, are you kidding me? Gli dico: ehi, non fare questa cazzata, mi hai sentito? Avanti, vattene. Esci da lì e torna a casa, è primavera. Le cose accadono in estate o in autunno, qualcosa ci inventeremo. Sto scrivendo Ghostbuster e tu dovrai esserci. Non preoccuparti, John, vedrai che faremo una bella cosa. Non sentirti sotto pressione, dai. La riunione si conclude con nulla di fatto. Prima di andare via, Belushi chiede denaro al suo agente, Bernie Brillestein. Dice di voler comprare una chitarra. Lui gli dà 1800 dollari in contanti e così lui inizia un giro vorticoso per locali a bere e drogarsi senza sosta. È il 4 marzo 1982. Contatta Catherine Smith, che gli procura eroina e cocaina, e lei è a iniettargli quel giorno la miscela delle due droghe, detta Speedball. Succede più volte nel corso della giornata. Come se non bastasse, John aggiunge sniffate e molto alcol. Va a bere al Roxy, che è il famoso locale di Los Angeles. Non si ferma molto. Con lui c'è sempre la pusher Catherine Smith. Durante uno dei suoi spostamenti chiama al telefono a New York Dan Aykroyd. He left me a message, a slurred, drunken... Mi lasciò un messaggio. Farfugliava come un ubriaco ed era un messaggio indecifrabile. Lo ascoltai alla segreteria telefonica, poi tornai al lavoro. I just continued working. Torna nella sua camera, allo Chateau Marmont, il bungalow numero 3. Improvvisa un party al quale partecipano due suoi vecchi amici, Robert De Niro e Robin Williams. I due se ne vanno e lui rimane con Kathy, sono entrambi ubriachi, e lei gli inietta un altro speedball in vena. Ammetterà in seguito di avere forse sbagliato la proporzione tra eroina e cocaina, eccedendo con l'eroina. Belushi si sdraia a letto. Catherine lascia il bungalow. Verso mezzogiorno un amico, Bill Wallace, entra e cerca di svegliare Belushi, ma John non respira più. E lui gli pratica un massaggio cardiaco, poi chiama il manager Brillstein. Neanche gli operatori dell'ambulanza riescono a rianimarlo. Belushi viene dichiarato morto. L'autopsia dirà che è deceduto per intossicazione acuta da eroina e cocaina. Sentiamo cosa dice il suo amico Dan Aykroyd. Al tempo stavo scrivendo Ghostbusters e stavo scrivendo proprio una battuta per lui quando mi chiamò il signor Brillstein dicendomi che John era morto. Mi alzai immediatamente ed uscii per andare da Judith. Non volevo prendere un taxi ed essere portato. Dovevo muovermi, altrimenti le ginocchia mi si sarebbero piegate. Corsi da Judith, dalla quinta alla ventitreesima, fino a Morton Street. Volevo dirle che lui era morto prima che lo sapesse da qualcun altro. Era fondamentale che lo sapesse da me prima di chiunque altro. The Chateau Marmont sits just above Sunset Boulevard and the Hollywood Hills. Lo Chateau Marmont si trova esattamente sopra il Sunset Boulevard, sulle colline di Hollywood. È davvero una pietra miliare nella città, un hotel dove molte star soggiornano quando lavorano a Los Angeles e dove alcune vi abitano. John Belushi era tra gli affezionati dell'hotel. Aveva preso il bungalow numero 3 domenica scorsa per iniziare a girare per la Paramount. Ed è stato proprio nella camera da letto principale del bungalow che Belushi è stato trovato morto oggi pomeriggio. La polizia ha riferito che William Wallace, il personal trainer di Belushi, si era recato al suo bungalow dal momento che non era riuscito a contattarlo al telefono. When he couldn't get Belushi on the telephone this morning. John Belushi viene sepolto nel cimitero di Abel's Hill, nell'isola di Martha's Vineyard, dove ha passato l'ultima spensierata vacanza. Al funerale Dan Aykroyd guida il corteo funebre, sgasando rumorosamente con la sua Harley Davidson. Di John Belushi rimangono soltanto 7 film e 4 anni di televisione, però rimane un grande rammarico per tutti i ruoli che avrebbe potuto interpretare e che non ha fatto. Pensate che Dan Aykroyd aveva scritto per lui una parte in Ghostbusters e in Una poltrona per due. E ancora, a Belushi fu offerto un ruolo da non protagonista nel film di Sergio Leone C'era una volta in America, forse in virtù della sua amicizia con De Niro, e Belushi aveva promesso che avrebbe perso almeno 20 kg per interpretare quel ruolo. Un John Belushi drammatico che non vedremo mai. E questo è un rammarico che abbiamo tutti. Ci siamo persi quello che sarebbe stato un grande attore ancora per decenni. È un rammarico che ha anche il suo amico di sempre, Dan Aykroyd. Alla fine capisci che abbiamo bisogno di tenere vivo il ricordo di chi ci ha lasciati, così come li abbiamo conosciuti. E loro hanno bisogno di noi così come li abbiamo conosciuti. Solo per un periodo, non per sempre o per l'eternità. Perché un giorno ci riuniremo ed allora sarà una notte molto movimentata. Questa è la storia di John Belushi, della sua ascesa e della sua caduta, un personaggio che comunque rimarrà nella storia dello spettacolo anche per quanto ha cambiato lo spettacolo. È un colpo d'ala ripetuto in alto e poi in basso. Se volete mandarci dei commenti o segnalarci altre storie su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it o visitate la nostra pagina e venite a trovarci sulla pagina Facebook. E insomma, se volete, mi trovate. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Giovanni Savarese.